parlare invece di artisti ormai assolutamente esplosi nel campo della street artist, ovviamente non può non citarsi Banksy, che, voglio dire, artista inglese di cui si sa molto poco per quanto riguarda la sua identità, visto che probabilmente neanche il suo gallerista sa molto di lui. Si sa che è nato a Bristol, ha la caratteristica delle sue opere è che sono la maggior parte a sfondo satirico, ma soprattutto riguardano argomenti importanti quali la politica, aspetti sociali, la cultura, l'etica. Ecco, diciamo anche che, diciamo che è un grande irriverente, perché non so, ricorderete per esempio su un muro il disegno di due Bobbies inglese che si baciano, faccio un esempio, e quindi esatto. Oppure non so, il lavoro stupendo che ha fatto nella barriera di separazione israeliana, lì ha utilizzato per esempio la tecnica del trompe l'oeil, che è praticamente questo tipo di arte che permette in qualche modo di vedere quello che c'è dall'altra parte. Esatto. In questo caso lui aveva raffigurato una sorta di oasi tranquilla che ci sarebbe stata, diciamo, al di là. Certo, attraverso il muro si vedeva come una spaccatura del muro, una sorta di finestra creata rompendo virtualmente il muro, e il disegno rappresentava un oasi al di là di questo muro. Però l'effetto poi dell'occhio è straordinario, perché sembra vero. Sì, nell'immagine che la tu forza. Vedi sembra assolutamente vero, sembra realmente che ci sia quello lì dietro. Ha fatto dei veri e propri prank, cioè degli scherzi, dei giochi. Per esempio, non so, nel 2006 fece circolare in circa 50 negozi di dischi nel Regno Unito delle copie parodia dell'album Paris di Paris Hilton. Che cosa aveva fatto addirittura? Aveva rimodificato i titoli delle canzoni originali. Non so, perché sono famosa? Che cosa ho fatto per fare questo CD? Io avrei qualche idea, certo, ecco. Aveva replicato sì circa 500 copie di questo CD parodiandolo, che poi sono state vendute a circa 750 sterline su eBay.